24, i gialli della storia. E lui, vescovo di Molfetta, andò di corsa, generosamente, senza se, senza ma. Questo dà la cifra della umanità, ma anche della estrema libertà di Don Tonino, uomo e vescovo. Pace, carità, giustizia sociale, di questi valori Don Tonino Bello ha fatto una bandiera del suo apostolato. Un uomo coraggioso e coerente, anche nei momenti più difficili della sua missione. Un vescovo in Puglia che sogna una chiesa lontana dal potere e al servizio degli umili e degli emarginati. E a questa missione dedica tutta la sua esistenza, tanto da essere stato amato da tutti, fedeli o anche soltanto uomini di buona volontà. Poi negli anni 80 e 90 Don Tonino sarà in prima linea nella lotta contro le guerre per una pace senza condizioni. Il 20 aprile del 93, dopo solo 4 mesi da un'impresa straordinaria, il vescovo degli umili viene stroncato da un cancro incurabile. Una missione di pace a Sarajevo, mentre l'orrore della guerra sta distruggendo la città. Oggi a Mix 24 la storia di Tonino Bello, con testimonianze inedite, con le omelie, le interviste, le voci di amici e compagni di strada, per ricordare un prete coraggioso, un testimone del Vangelo. Nella omelia della prima messa episcopale tenuta qui in Alessano, ringrazia questa terra piccola e povera che mi hai fatto nascere povero come te. Sacrifici noi ne abbiamo fatti tanti, io ero ancora in tenera età, per dire quanti sacrifici abbia fatto mia madre. Innanzitutto aveva degli incarichi saltuari di lavoro, così ogni 15 giorni lavorava presso la manifattura di tabacchi. La domenica, per esempio, quando non andava a lavorare, andavamo in campagna a raccogliere le foglie. E sicuramente questo fatto familiare lo ha segnato profondamente, sicuramente. Gli ideali per cui si è battuto, diciamo così, traggono spunto proprio da questa esperienza vita. Il 10 agosto 1982 Giovanni Paolo II lo elegge vescovo di Molfetta, Giovinazzo e Terlizzi, e il 30 settembre 1982 vescovo di Ruvo, diocesi unita alla precedente in persona episcopi. Se l'ho presentato alla Santa Sede, al Papa, perché lo eleggessero l'Episcopato, è chiaro, perché ne avevo un concetto particolarissimo, perché mi impressionò sin dalla prima sera, quando io ho preso servizio alla diocesi di Ugento. C'era la cattedrale, era strapiena, ma lui dirigeva, animava l'assemblea. Quando siamo usciti, il direttore della Gazzetta, che era presente, dice: ma quello è un prete eccezionale. Quello parlava con uno stile di giornalista che raramente si ascolta quando parla un prete. Mi trovai per caso a mezzanotte a mettere i manifesti dello sciopero per la pace che avremmo fatto. Stavamo mettendo i tazze baudi, i manifesti che facevamo a mano, vedemmo due persone con un cappotto scuro, la sciarpa nera e una valigia. Uno di loro aveva una valigia chiusa con lo spago, e questo uomo si ferma, era Don Tonino, ma noi non lo sapevamo. E poi c'era il suo segretario, l'attuale vescovo di Molfetta, e che ci disse: ah, che bella iniziativa, noi verremo. Si misero dietro, in fondo. Però noi notavamo che man mano che camminavamo, i sacrestani guardavano e chiudevano le chiese, sbigottiti. Quando arrivammo alla fine del corteo, si tolsero la sciarpa e si presentarono. Disse: io sono il vostro nuovo vescovo, sono Don Tonino Bello. Oggi pomeriggio mi presenterò in cattedrale, però pensavo che presentarmi a voi che marciate per la pace. E poi ci contò, eravamo 44, mi sa, siete un po' pochi. Il pomeriggio io non andai alla sua presentazione in cattedrale, però c'era mio padre. E lui tornò dicendo: guardate, si è presentato un nuovo vescovo con un pastorale di legna e con una croce di legna. Il sindaco dell'epoca, si chiamava Beniamino Finocchiaro, aveva preparato un discorso. Quando tutti sentirono parlare Don Tonino, che improvvisò, parlando all'anima, al cuore, parlando non alla mente, Beniamino strappò il suo discorso e parlò anche lui a braccio. Era stato appena nominato vescovo da 15 giorni e ci fu un problema, un licenziamento degli operatori delle ferriere di Giovinazzo, mi ricordo. Ci fu naturalmente degli scioperi a occupare le cose. Lui andò a occupare, a fare protesta insieme a questi lavoratori che stavano perdendo la loro sussistenza di vita. E al giudice che intervenne disse: se dovete arrestare loro, dovete arrestare anche me. C'è una fondazione sui plinti saldi della teologia. Ho detto, siamo giunti alla pienezza dei tempi. Vedete, finché per secoli e secoli nelle nostre chiese abbiamo parlato di pace, nessuno ha contestato. Pace, il monoteismo assoluto della pace. Quando sulla scorta di Isaia si è scoperta la stretta parentela che c'è tra la pace e la giustizia, si sono scatenate le censure dei potenti. Si è asserito e si continua ad asserire che collegare il discorso sulla pace e quindi il discorso sulla guerra con i discorsi sull'economia perversa che domina il mondo, sul profitto, sulla massimizzazione del profitto, sui debiti del terzo mondo, sulla crescente divaricazione tra i nord della terra e i sud, significa fare la parte degli utili idioti. Impegnarsi per la pace, impegnarsi per i poveri che... Non era retorica, non erano parole tanto perché oggi si dice i poveri, lo dicono anche i ricchi oppressori, ma lui no, veramente amava i poveri. Non dimentichiamo che il suo motto episcopale, ascoltino gli umili e si rallegrino, era racchiuso un pochino tutto il suo programma. Don Tonino mi ha detto amare Gesù Cristo. Però mi ha dato anche una chiave di volta della vita. Gesù Cristo lo si ama quando lo si riconosce nei poveri. La giustizia collocata da Dio stesso accanto alla pace desta più sospetto di quanto non desti scandalo collocata accanto alla guerra. Tant'è che si parla ancora di guerra giusta. Questo sì che è principio di adulterio. A proposito della guerra del Golfo, furono le uniche due voci, la sua e quella di Giovanni Paolo II, che insorsero contro la guerra che è sempre ingiusta, che è un utero che può partorire solo sacrifici, morte e distruzione. Il Papa ha scritto il messaggio per la giornata mondiale della pace. Io credo che sia il documento più bello che abbia potuto scrivere, per lucidità, per chiarezza, per forza profetica, un messaggio eversivo, fortissimo, perché dice che la povertà genera la guerra, poi dice un'altra cosa, la guerra genera povertà, e poi dice una terza cosa ancora più forte, convertitevi alla povertà, diventate più poveri, una cosa inaudita. Io credo che rimarrà questo messaggio proprio nei manuali, nell'Enchiridion, dei profeti di tutti i tempi. L'aspetto sociale, lui era un contemplativo, non era uno che si chiudeva soltanto a pregare, era anche attivo, cioè alle sue preghiere, ai suoi insegnamenti così teorici, faceva, non dico seguire, ma forse addirittura anticipare quelli che erano i fatti. Parlava della necessità di essere contemplativi. Non contemplativi, sì. Ma contemplativi, cioè di poter coniugare insieme appunto la dimensione inevitabilmente solitaria del concentrarsi e dello sfinirsi persino nel pensiero di Dio con la dimensione invece militante, cioè dello stare dentro la storia, del diventare compagni dell'umanità, di appunto spezzare il pane insieme ai poveri, ai sofferenti, agli oltraggiati, agli ultimi, agli offesi. Ci sono tanti segni di tristezza, di insofferenza, di intolleranza, di emarginazione, di sopruso. Ci sono questi segni, lo vediamo, è cronaca di ogni giorno. Però per un altro verso ci sono anche i segni dell'arcobaleno, i segni della speranza, cioè c'è un volontariato straordinario che sta esplodendo e questo ci fa piacere. La prima cosa che mi chiese, il primo favore che mi chiese, proprio questo, cioè di aiutarlo a conoscere la gente. Voleva subito conoscerla, stare insieme. Ecco, questo stare insieme, che per lui è stato poi un ritornello in tutta la sua vita, e infatti in una sua preghiera parla dell'ebbrezza dello stare insieme, questo profumo di popolo. Profumare di popolo, quella è l'espressione che lui spesso diceva pure, bisogna profumare di popolo, perché nel popolo c'è la memoria di una grande storia, di una grande tradizione. Don Tonino usciva di notte, ecco, abbandonava l'episcopio che noi giovanissimi militanti di Azione Cattolica vedevamo come una specie di reggia in cui abitava un principe della Chiesa, e lui usciva di notte con una piccola utilitaria abbastanza scalcagnata e incontrava la notte, l'attraversava in lungo e in largo e andava raccattando umanità negli angoli delle città della sua diocesi, si fermava a raccogliere barboni alcolizzati. Quando io vedevo e sapevo che trovava sulla porta dell'arcivescovato un tossicodipendente o una famiglia di sfrattati, non aveva esitazioni a portarselo con sé, a tenerselo nelle sue stanze, continuavo a chiedere: ma questo che uomo è? Che prete è? Che vescovo è? Don Tonino Bello è una difficile icona, è una scomoda icona. È la chiesa del grembiule, è la chiesa che lava i piedi ai poveri, agli ultimi, è la chiesa che si libera dai segni del potere e che insegue accanitamente il potere dei segni, è la chiesa povera di diademi e di ori, è ricca invece delle voci dei poveri, cioè un'altra chiesa, è una chiesa che naturalmente interroga anche la storia, interroga la politica, ma la interroga con una qualche asprezza, non ne sopporta la retorica. È una cosa meravigliosa sperimentare giorno dopo giorno come la gente si sappia aggregare attorno a progetti validi. Dietro ogni ragazzo tossicodipendente c'è un uomo, un figlio di Dio, un fratello, no? Toccato a loro, sarebbe potuto benissimo toccare a me. Quindi dietro ogni buco c'è una vita che va rispettata, che va accolta, che va seguita, che va incoraggiata, che va alimentata. Ma è anche vero che dietro ogni vita c'è un buco, perché è vero, forse noi non ci siamo così bucate le vene con l'ago, non abbiamo iniettato siringhe di droga nel nostro metabolismo, però abbiamo immesso nel circuito nostro vitale, esistenziale, tante siringhe di disvalori. I ragazzi si sono fatti un buco, ma noi ci siamo fatti una cisterna. Caro Giuseppe, non ce l'abbiamo fatta né tu né io. Non ce l'hai fatta tu, perché a 3 mesi esatti da quando sei uscito dal supercarcere di Trani, ieri ci sei tornato di nuovo. Non ce l'ho fatta io, perché avrei dovuto dare ben altro credito alla tua parola d'onore. Mi ripetevi sempre che nella tua lunga carriera di galeotto, ogni volta che uscivi dal carcere, dopo 3 giorni ci ritornavi. Tutto sommato, la tua libertà si è frantumata non contro le sbarre del carcere, ma contro quelle del nostro perbenismo borghese, delle nostre ipocrite paure, dietro le quali siamo tutti prigionieri, e dalle cui pareti non sappiamo evadere, non dico per 3 mesi, come te, ma neppure per 3 giorni. Coraggio, Giuseppe. Siamo tutti pezzi da galera. Oh, Giuseppe, allora sei tornato dal carcere una settimana fa. Dove stai adesso? Dove dormi? Io dormo alla stazione, non ho vergogna di dirlo. Voglio trovare una sistemazione come tutti quanti gli altri. Ma tu perché ti ubriachi? Devo dimenticare i fatti miei. Ecco Don Tonino, perché io mi brillo un poco. Ma tu sei deciso adesso a cambiare? No, molto deciso a cambiare, perché non gliela faccio più a fare questa vita. Oggi la Chiesa si deve mettere in corpo l'occhio del povero e vedere la realtà, vedere la storia, la cronaca, dall'angolo prospettico dei poveri. Questa è essenzialmente la scelta degli ultimi. Soprattutto si fidava talmente di noi laici. Ed è questa una cosa che porto dentro. Lui credeva che noi laici potessimo meglio affrontare i problemi della società. La pace, la libertà, la tolleranza, il rispetto per la dignità delle persone sono contenuti laici. Sono contenuti laici. E lui ce l'ha presentati in maniera essenziale, rispettosa, non bigotta. Io mi chiedo, se fosse vissuto oggi Don Tonino, che avrebbe detto nel vedere assalire il campo nomadi di Ponticelli? Pensa, quando i nostri fratelli non cristiani, i musulmani in particolare, che non sono ben capiti chiaramente, mi hanno chiesto di trovare un posto nel mese di Ramadan per andare a pregare, e io gli ho chiesto: li posso portare alla Caritas? Certo che li puoi portare, questo è un posto. Come possiamo negare a un'altra religione di unirsi per pregare durante il mese del Ramadan solamente? Cosa che è stata rifiutata dopo che è scomparso. Mi è stato detto non incoraggiare l'integralismo islamico. Ma quale integralismo? Se si mettono insieme per pregare, anche se non hanno la stessa religione nostra. Una marcia di pace nei luoghi di guerra. Fra poco più di un'ora dal porto di Ancona partiranno giovani e meno giovani diretti nell'ex Jugoslavia. 600 persone, religiosi e laici, in gran parte italiani ma anche statunitensi, canadesi e perfino 5 monaci giapponesi. Vogliono celebrare la giornata internazionale dei diritti umani proclamata dall'ONU per giovedì prossimo a Sarajevo. Quando questa idea viene fuori, Don Tonino subito la associa alla missione di pace che storicamente risale a San Francesco d'Assisi, e quindi a questo andare nelle parti dove si combatte e dove, tra virgolette, c'è il nemico, e quindi lì portare una parola di pace. Questa carovana della pace si è imbarcata poco fa sulla motonave di Burnia e salterà fra poco alle 22 alla volta di Spalato. Dell'arrivo di questo corteo dai mille colori sono stati informati i rappresentanti dell'ONU e delle varie fazioni in lotta, ma non ci sarà alcuna protezione militare e nessuno è in grado di garantire la sicurezza nel percorso fra Spalato e Sarajevo. Io ricordo la mattina quando siamo partiti, come se dovesse andare a sposarsi, come se fosse dovuto andare a sposarsi. Era contentissimo, ricordo, mi fece comprare un sacco di cose perché bisognava portare lì medicinali, tutto, roba per bambini. È stata una cosa veramente straordinaria, sì. Transivimus perignem et aquam et liberati sumus. Siamo passati per l'acqua e per il fuoco e siamo stati liberati dal Signore. Siamo passati dall'acqua perché abbiamo subito un mezzo naufragio, eravamo proprio sull'orlo del naufragio completo, sarebbe stata una tragedia per una tempesta che non si verificava da 20 anni su quella rotta dell'Adriatico. E poi siamo passati per il fuoco, siamo passati attraverso così lo scoppiare delle granate, il pericolo delle armi puntate. Però abbiamo visto veramente tanta sofferenza durante quei giorni che siamo stati lì. Abbiamo attraversato veramente, per arrivare dal porto lì a Sarajevo, abbiamo fatto tanta marcia con questi pullman tutti scassati e posti di blocco, ci fermavano. finalmente siamo arrivati. E siamo stati lì una notte e mezza giornata prima di poter entrare a Sarajevo. Eravamo fermi sulla montagna innevata prima di entrare a Sarajevo. Per 7 ore siamo stati fermi, in pullman gelidi. A un certo punto io sono sceso, è venuto da me un uomo, ha visto la croce, ha baciato la croce e ha detto: vieni a casa mia, che stiamo facendo un banchetto funebre, mio padre è morto 6 mesi fa e noi usiamo fare questo convito. E sono entrato, c'era una gran tavolata, tutti mangiavano, e lui ha detto: io sono serbo, mia moglie è croata, queste mie cognate e cognati sono musulmani, eppure ci vogliamo bene e viviamo in pace, perché la guerra? È stata un'esperienza un po' folle, un po' pazza, compiuta soprattutto da 500 persone, non da 10, da 50, da 500 persone tutti insieme. Siamo entrati nel cuore della guerra e abbiamo sperimentato che ci sono alternative ai processi di militarizzazione, alle logiche delle armi, alle logiche della violenza. Ci sono alternative, sono chiarissime. Soprattutto perché abbiamo visto noi, gente povera, in mezzo ai poveri del posto, abbiamo visto questo anelito che si sprigiona proprio dalle profondità della città. Abbiamo ripreso il viaggio del ritorno e già diede una brutta notizia, già si sapeva, Marcello disse che doveva iniziare il secondo ciclo di chemioterapia. Il stress ne ha avuti tantissimi. Gli stress influiscono anche su quello che può essere una malattia, per esempio, allo stomaco, qual era quella di Tonino. Ha voluto fino all'ultima ora celebrare su una tovaglia tessuta insieme da donne della Bosnia serbe e croate, quasi come simbolo di questa unità. Poche ore prima ancora ha accettato volentieri di concelebrare, stendendo la mano alla consacrazione, aprendo le braccia al momento della pace e alzando ancora faticosamente la mano per l'ultima benedizione su tutti. Io credo che si possano evitare le guerre se tutti gli uomini fossero capaci di fare un grande pellegrinaggio, non verso Sarajevo, verso Mogadiscio, ma un pellegrinaggio che va dalla periferia del nostro essere, del nostro vissuto, così lacerato, così contorto, così asfittico, così preso dall'affanno delle cose, un percorso che vada appunto da questa esteriorità fino al centro del nostro essere, del nostro io, della nostra persona, al profondo, al cuore del nostro vissuto, dove troviamo davvero il nido della pace, il santuario, purtroppo con i battenti quasi sempre chiusi, il santuario all'interno del quale potremmo riscoprire la bellezza dei volti. Hanno collaborato ai Gialli della Storia Francesco Anzalone, Daniela Ghezzi, Antonella Migliaccio, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Le puntate si possono riascoltare in podcast sulle pagine di Mix24 sul sito www.radio24.it.